mio bene, oh mio bene. Oh mia vita, non mi far più. Oh mio bene, oh mia vita, io mi sento, morire. Non più guerra d'amore, non più guerra. Mio cuore, non più guerra. Non più guerra di noia, mia gioia.